cantato nu cammella, ma ci ha cattato nu turbando, nu turbandari nascendo con pennacchie rosse e blu. Con fiasca in mano da morriella, cerco petrolio americano, mentre ballano i beduini, mentre cantano in tribù. Come si bella a cavalla stu cammello, con vino dall'altra colla, con turbanti ordine. Uè, si curioso, mentre scava su per tu, si scordate il non è cosa, con petrolio non ci sta. Ma chi da fatta? Come si bella a cavalla su cammello, con vino dall'altra colla, con turbanti ordine. E con cammello che guardi innanzi a porta arredo, dopo la faccia tu ledo, non si può più camminare. Già mi è arrivato pazzariello, se è travestuta Menenic, mi scoppeva con tabacca, chi s'arrasta lì papà. Come si bella a cavalla sto cammello, con vino, con l'altra colla, con turbanti un archile. Uè, si curioso, mentre scava su portuso, scordate, non è cosa, cosa trovi, non c'è.